Questo è un podcast di Rivista Militare. Guerra e politica in Antonio Gramsci, di Fabio Vander. Fine ottobre, inizio novembre 1917. Pochi giorni che sconvolsero il mondo e con esso l'Italia, in piena Prima Guerra Mondiale. In ordine di tempo, il 24 ottobre è la rotta di Caporetto. Come scrisse un grande storico come Giuseppe Galasso, Caporetto fu intesa già dai contemporanei non come un sia pur gravissimo rovescio militare, ma come cartina di tornasole di carenze strutturali e originarie dell'Italia Unita che rimandavano anzi al più remoto corso della storia italiana. Seconda data, 7 novembre 1917. La rivoluzione d'ottobre, secondo il calendario ortodosso, cancellava con la secolare dinastia zarista un'intera fase della storia del mondo. Ne apriva un'altra, destinata a segnare l'intero Novecento. Ragioneremo di tutto questo con gli occhi di Antonio Gramsci, il pensatore sardo fondatore del Partito Comunista, che, maxime nei quaderni del carcere, seppe trarre dall'intreccio dei due eventi, Caporetto e l'ottobre, un'alta qualità di pensiero politico e strategico. Anche da Gramsci, Caporetto era inserita entro una lettura forte della storia d'Italia moderna e contemporanea. Il tema è inedito e stimolante. Un dirigente comunista non solo esperto di cose militari, ma capace di intrecciarle mirabilmente con la storia politica del paese e con quella del nascente movimento operaio. Quanti uomini politici del suo tempo conoscevano Giulio Duet? Ebbene, un giovane militante socialista, trasferitosi per studiare dalla Sardegna a Torino, lo conosceva, almeno dagli anni 10. Da prima della guerra lo aveva letto e studiato. Chi era Duet? Ufficiale di origini piemontesi, di fatto il fondatore dell'aviazione militare italiana. Teorico della guerra aerea come guerra integrale, durante la Grande Guerra fu il primo a capire che l'offensivismo di Cadorna sul fronte orientale era esoso e perdente. Occorreva passare dal movimento alla posizione. Reimpostare la strategia sulla guerra di logoramento. Accusato di disfattismo e tradimento, Duet fu degradato, condannato, incarcerato. Eppure, all'indomani della guerra, fu reintegrato nell'onore e nel grado fino anzi a divenire generale. La sua lettura della guerra integrale si era rivelata giusta. Gramsci conosceva Duet perché l'ufficiale scriveva di cose militari sulla Gazzetta del Popolo di Torino, giornale che Gramsci leggeva tanto da citare spesso gli articoli del colonnello sull'Avanti torinese, e avrebbe continuato a studiarlo fino agli anni del carcere fascista. Gramsci aveva letto anche il celebre memoriale che Duet aveva stilato contro Cadorna e che gli era valso appunto la degradazione e la condanna a un anno di carcere. Uscì di prigione il 23 ottobre 1917, il giorno prima del disastro di Caporetto. Se Duet fu un critico radicale di Cadorna, Gramsci fu un critico radicale del cadornismo politico, cioè di una politica tutta assalti, violenza, avanguardismo. Qui il nesso con la rivoluzione d'ottobre. Alla luce di Caporetto, Gramsci realizzò infatti che la rivoluzione in Occidente, nei grandi paesi sviluppati, non poteva più essere quella dei bolscevichi in Russia. Se Duet aveva opposto all'offensivismo di Cadorna una nuova mediazione tra attacco e difesa, fra arditi e fanteria da trincea, fra movimento e posizione, Gramsci tradusse tutto questo in politica. Come scrisse nei quaderni, il vero arditismo, cioè l'arditismo moderno, è proprio della guerra di posizione, così come si è rivelata nel 14-18, Gramsci 1975, pagina 120. In altre parole, arditismo e guerra di posizione sono perfettamente compatibili secondo la ricetta magica escogitata dai tedeschi proprio a Caporetto. Nessun avanguardismo staccato dal resto delle masse, in guerra come in politica. Le avanguardie senza esercito di rincalzo, gli arditi senza fanteria e artiglieria, sono anch'esse trasposizioni del linguaggio dell'eroismo retorico. Non così le avanguardie e gli arditi come funzioni specializzate di organismi complessi e regolari. Gramsci 1975, pagina 1676. Lo strumento militare deve essere sempre connesso al paese, e così quello politico. Questo perché la guerra di posizione non è solo costituita dalle trincee vere e proprie, ma da tutto il sistema organizzativo e industriale del territorio che è alle spalle dell'esercito schierato. Gramsci 1975, pagina 859. Dopo Caporetto e dopo l'ottobre, secondo Gramsci, in Occidente la società civile, cioè la sovrastruttura, la politica, la democrazia, l'opinione pubblica, a tal punto si era sviluppata da non tollerare più soluzioni semplificate, la rivoluzione violenta di un giorno. A quanti nel campo comunista, come il russo Trotsky, con la sua rivoluzione permanente, pensavano di replicare in Occidente il modello sovietico, Gramsci obiettava che il loro era un concetto quarantottesco della guerra in movimento, cioè vecchio, ottocentesco, superato. Occorreva passare, nel civile e nel militare, alla guerra di posizione e affidarsi a categorie nuove, quali il concetto di egemonia o le grandi organizzazioni popolari di tipo moderno che rappresentano come le trincee e le fortificazioni permanenti della guerra di posizione. Gramsci 1975, pagina 973. Non è una forzatura dunque parlare di una dottrina della democrazia elaborata da Gramsci sulla scorta dell'esperienza della guerra e del fascismo. Scriveva ancora nei quaderni: la struttura massiccia delle democrazie moderne, sia come organizzazioni statali che come complesso di associazioni nella vita civile, costituiscono, come per l'arte della politica, come le trincee e le fortificazioni permanenti del fronte nella guerra di posizione. Gramsci 1975, pagina 1567. Il tempo della rivoluzione di movimento era scaduto. L'ultimo fatto di tal genere sono stati gli avvenimenti del 1917. Essi hanno segnato una svolta decisiva nella storia dell'arte e della scienza della politica. Gramsci 1975, pagina 860. Dopo l'ottobre occorreva un mutamento dalla guerra manovrata applicata vittoriosamente in Oriente nel 17 alla guerra di posizione che era la sola possibile in Occidente. Gramsci 1975, pagina 866. In questo senso, il fascismo era stato la prima rivoluzione in Occidente. Alla guerra di movimento sovietica del 17 era infatti seguita una guerra di posizione il cui rappresentante, oltre che pratico per l'Italia, ideologico per l'Europa, è il fascismo. Gramsci 1975, pagina 1229. Di qui la domanda decisiva. È possibile nel Novecento una guerra di posizione democratica, cioè non fascista? Ragionando proprio della Grande Guerra, Gramsci si era convinto che da dopo il 1918 si passa alla guerra d'assedio, compressa, difficile, in cui si domandano qualità eccezionali di pazienza e di spirito inventivo. Nella politica d'assedio è reciproco. Un acquisto teorico importante, la politica come assedio reciproco, indecidibile. Se qualcuno provasse a rompere con la forza tale equilibrio, l'esito sarebbe catastrofico. Porterebbe alla distruzione reciproca delle parti in lotta. È vero, con Clausewitz, che la politica è la prosecuzione della guerra con altri mezzi, che però significa, dopo il 1918, che la politica è ormai una sorta di guerra di attrito in tempo di pace. Gramsci richiamava ancora Douhet, che nei probabili aspetti della guerra futura aveva scritto: quella del 14-18 è una guerra statica, non sono eserciti che si battono, sono nazioni che si assediano. Se non si vuole lasciare la vittoria al fascismo, la democrazia in Occidente deve ripensarsi come guerra di posizione, come attesa paziente del cedimento dell'uno dei due in seguito all'esaurimento prodotto da una lunga, ininterrotta tensione di muscoli e di nervi. È una lotta senza precedenti, di carattere nuovissimo. Questa intuizione del tempo lungo della politica, con le sue vittorie sempre parziali e irreversibili, è forse il contributo più importante a un nuovissimo concetto di rivoluzione da parte di un pensatore incompreso ed equivocato dagli amici non meno che dai nemici. Antonio Gramsci. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.